Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. In tempo di crisi, anche le spese per le vacanze vanno necessariamente ridotte. E così succede che in Svizzera un vecchio bunker costruito ai tempi della Guerra Fredda si trasformi in un albergo poco confortevole, ma alla portata di tutti. Ecco la notizia che il riscaldamento globale della Terra ha causato l'arretramento dei ghiacciai alpini, al punto tale da cambiare i confini con l'Italia. Una sorpresa. I confini che cambiano nella vecchia Europa. Con la Svizzera, il trattato che le definiva risaliva addirittura al 1861. Le commissioni preposte sono ora al lavoro nei rispettivi paesi. E al di là di questo confine divenuto incerto, in Svizzera, appunto, si ricicla a uso alberghiero e turistico un vecchio bunker per la protezione nucleare, risalente agli anni della Guerra Fredda. Evidentemente, la paura fa 90 anche nei quattro cantoni. Così, la Svizzera si adegua ad altri stati che hanno da tempo intrapreso iniziative analoghe. L'ostello nel bunker, che si trova a Sevelen, paesino a nord di San Gallo, non è solo l'idea curiosa dei due fratelli gemelli, nonché artisti Frank e Patrick Ricklin, fondatori dell'atelier Für Sonderaufgaben, atelier per progetti speciali. Corrisponde anche a una tendenza, o se vogliamo a un'esigenza, di grande attualità, legata al taglio che hanno subito i nostri guadagni, mentre il costo della vita continua a salire. Un letto nel Null Stern Hotel, albergo a zero stelle, costa per una notte a partire da 9 euro. Niente prima colazione, niente servizi in camera, i bagni sono in comune, purtroppo niente riscaldamento, ma c'è l'acqua calda. E allora, perché non ripescare le vecchie boule di gomma di autarchica nostalgia? Un lusso sfrenato in questa situazione così spartana. L'ingresso al bunker non è invitante, potrebbe mai esserlo. Quindi, meglio arrivarci di notte in un vago clima di mistero. Essenzialità e risparmio sono i punti cardine di questo progetto. Anche l'arredo è sobrio. I letti sono di metallo o di legno, di recupero. Ovviamente non esistono finestre, le pareti sono di cemento armato. Si è scesi sottoterra, dove si rimane al chiuso. Il silenzio è assoluto. Decisamente non è un'esperienza consigliabile a chi soffre di claustrofobia o altre paure simili. L'idea dei fratelli gemelli ha avuto fortuna ed è stata subito accolta dalla società Mind Motion, che ha deciso di sviluppare questo nuovo segmento low budget dell'hotellerie svizzera. Se ne occupa Daniel Charbonnier, che ha tutte le carte in regola per farlo. Co-founder della Hospitality Advisor di Lausanne, ha lavorato precedentemente per i casinò di Larry Flint e la catena Four Seasons. Altri bunker in Svizzera non dovrebbero mancare. Bunker privati, perché quelli per la difesa militare sono segreti e intoccabili, al pari di certi tunnel di cui si fantastica, scavati sotto le Alpi come vie di fuga in casi estremi. Ma ce ne sono molti lungo le linee di trincea delle due guerre mondiali, le linee Sigfrido e Maginot, nei valli di montagna e sulle coste della Normandia. Altri bunker, privatissimi, sono passati al disonore di recenti cronache orrorifiche, l'ultimo proprio in Austria, dove invece, a Vienna, uno dei sei enormi bunker fatti costruire da Hitler per la difesa contraerea, con altri sei a Berlino e quattro ad Amburgo, è stato riconvertito da anni in un museo che ospita, su quattro piani, un acquario e rettilario. Questa Flakturm, così si chiamano, si trova nell'Estasi Park, più un giardino che un parco, vicino alla Mariahilferstrasse, e ha una parete esterna attrezzata per gli appassionati di free climbing. Nel tempo, queste sei Flakturme, elevate per durare in eterno secondo le intenzioni del regime, a opera di Friedrich Thams, che le chiamava anche Schissdom, cattedrali degli spari, hanno assunto un aspetto monumentale e addirittura sontuoso, pur ingombranti come sono, pachidermi in una cristalleria, ma si sono integrate al tessuto urbano. Anche le due che sorgono nel parco Augarten, più noto per il vicino Museo della Porcellana e per la fabbrica che fu la prima a produrre nel Settecento questo materiale. Un parco dove la fitta e altissima vegetazione le nasconde e si rischia di continuare a girare loro intorno prima di trovarle. La loro massa contrasta con l'agilità delle slanciate siepi di carpini che fiancheggiano gli spazi erbosi e quelli lasciati al bosco. Sono presenze allarmanti e sospettosamente belliche, aggeggi da guerre stellari, mostruose astronavi che per i frequentatori del parco sono diventate invece compagnie innocue e neutre, e forse anche rassicuranti punti di riferimento. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Rinaldi In vacanza nel bunker, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Nei giorni scorsi è stato scoperto a Milano un albergo sotterraneo gestito da cinesi che affittavano ai propri connazionali minuscoli loculi fatiscenti a 50 euro al mese. Ecco il commento che Michele Serra ha scritto per Repubblica. Hanno chiuso l'Hotel Botola, Milano via MacMahon 77, da oggi nelle peggiori guide turistiche. Lo hanno chiuso perché faceva schifo e perché era illegale. Perché ci vivevano una sessantina di cinesi, clandestini per metà, naturalmente anche bimbi piccoli, in condizioni igieniche indicibili, sdraiati tra assi compensato e materassi fetidi, diciamo come topi, a patto di non alludere ai topi disneyani, che al confronto se la passano da star, e soprattutto non pagano 200 euro al mese per vivere sottoterra. Lo hanno chiuso perché l'ingresso non era quel che si diceva a norma, un buco nel marciapiede. Lo hanno chiuso, insomma, perché a parte la pubblica decenza, esiste ancora qualche legge da applicare, e per fortuna. E perché gli uomini non sono topi, anche quando il loro disperato brulicare li conduce in branco, a sistemarsi come possono nelle intercapedini della civiltà. Ma a noi, scorrendo le incredibili fotografie mostrate dalla polizia, l'Hotel Botola dice qualcosa in più. Ci dice, o meglio ci ricorda, e ce lo ricorda con la rudezza della verità, che il provvisorio evo di prosperità e decoro che questa parte di mondo, la nostra, ha vissuto in semi-isolamento, è in corso di discussione. La pressione inarrestabile dell'umanità povera sta rimescolando tutte le carte e rilancia anche davanti ai nostri occhi, anche davanti a casa nostra, la percezione di una miseria energetica e potente che arriva a contaminare, intorbidare, a confondere e a dolere. Buchi per terra e dentro i buchi uomini. Così come accadde un paio d'anni fa, sempre a Milano, quando si scoprì tra le luci e gli stucchi della galleria, a un passo dalla scala, un pertugio che conduceva a sconosciuti abbaini, e negli abbaini dormivano immigrati. O come accadde negli accampamenti sgangherati, lamiere e cassette di frutta, che tribù fantasma allestiscono sotto i cavalcavia, in quei non luoghi che neanche più riusciamo a inquadrare, quando passiamo in automobile, se non quando vediamo con la coda dell'occhio qualcuno uscire dai roveti, o scavalcare un guardrail rugginoso. O negli insediamenti neopaleolitici scavati nel tufo delle periferie romane, o nei ruderi della piana pugliese, dove trovano casa gli schiavi africani pagati un niente a giornata. Bisogna riandare, per trovare qualche memoria occidentale di simili stenti, ai romanzi foschi della Parigi di Hugo e Zola, o della Londra di Dickens, e alla promiscuità affamata e tisica del proletariato inglese raccontato da Engels. Al nostro Ottocento, insomma, al ruggito della grande rivoluzione industriale che produsse smisurato profitto e progresso, sbranando la plebe imprigionata nella macchina, dissanguando i contadini inurbati, facendo lavorare, come oggi i cinesi, bambini e bambine per 10, 12, 15 ore al giorno. Il libro nero del capitalismo, ancora in cerca di un editore. L'Hotel Botola, invece, ha aperto e chiuso la sua breve parabola nel 2009 a Milano, cioè qui e ora. Per dire che la storia, piuttosto che finire, come disse un saggista frettoloso, ricomincia sempre. E che in quella stessa Milano che prepara, o vorrebbe preparare, l'Expo del 2015, lavorando in altezza, grattacieli e cristalli, c'è un'umanità meno rappresentativa, ma non meno progettuale, che, per vivere, al contrario, scava, febbrile e inarrestabile, e senza neanche il bisogno di nominare esperti. Grazie dunque all'Hotel Botola per aver allargato, e di molto, l'inquadratura. Dallo skyline alle viscere, con la netta sensazione che saranno le viscere a cambiare lo skyline e non viceversa, se non altro per questioni di età. L'età media dei clienti dell'Hotel Botola è 100, 1000, 10.000 volte più bassa di quella degli attuali padroni dello skyline. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Michele Serra, L'albergo in un tombino, da Repubblica del 25 marzo. Le assurdità del nostro paese non finiscono mai di stupirci, come dimostra il rinvio a giudizio del giornalista antimafia. P. Pino Maniaci, direttore di Teleiato a Partinico, Palermo, è stato rinviato a giudizio per esercizio abusivo della professione giornalistica. Non aveva il tesserino del caso, cioè. La sua TV antimafia è formalmente a posto e ha un direttore responsabile che si chiama Riccardo Orioles, ma fa niente. Non sto a valutare come Pino Maniaci faccia il giornalista, ma so che sicuramente lo fa. Però non lo è. Quanti invece lo sono, ma non lo fanno? Quanti fanno magari dignitosamente un altro mestiere? Quanti fanno intrattenimento, o cosiddetto infotainment? Quanti reggono solo un microfono? Quanti mezzi busti leggono solo testi altrui? Quanti incollano solo agenzie di stampa, o fanno gli autori? O compilano didascalie in riviste che sono dépliant pubblicitari? Quanti danno spazio solo a chi è inserzionista? Quanti segnalano solo chi gli ha regalato le scarpe, il profumo, la borsa, la giacca, il cellulare, la vacanza o l'auto scontata? Perché Striscia fa arrestare Vanna Marchi, ma non è un programma giornalistico? Perché non lo è Le Iene? Perché altri contenitori invece sì? Perché non si cita quasi mai Dago Spia, anche se fornisce notizie con giorni di anticipo? Perché si dedicano paginate alle nomine dei giornalisti lottizzati e solo poche righe ai peones che si fanno il mazzo in zone di frontiera? Possibile, soprattutto, che il nuovo contratto giornalistico non dica una parola sui buoni pasto? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Filippo Facci, Uno, Nessuno e Giornalisti, dal Giornale del 31 marzo.